Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. Vi porgo i saluti anche da parte di Antonio Talia, Eleonora Aragona e Silvia Malnati, che sono in redazione, Andrea Roccabella, che è in regia. Dopo la piccola pausa che ci siamo presi ieri raccontandovi di storie, di musica in prima linea, sganciandoci da quella che è la stretta attualità internazionale, il weekend appena trascorso ci ha consegnato tragici episodi di cronaca. Questi li potete commentare insieme ad altri suggerimenti su tematiche che vorreste noi trattassimo al 349-238-6666. Questo numero vale sia per gli SMS che per i WhatsApp. Twitter Nessun Luogo 24 oppure Giampaz, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. E come avete sentito anche dall'anticipazione delle 13, andiamo in Yemen. The crater gives an idea of the sheer force of the airstrike. The medical charity Doctors Without Borders runs this hospital in Yemen's northern province of Hadra and says it was hit by Saudi-led coalition planes. E così Al Jazeera English dava la notizia del bombardamento sull'ospedale gestito da MSF nella città di Habs, regione di Asia, nel nord ovest del paese. Siamo in Yemen, un paese lacerato da una profonda guerra civile ormai da tempo, un paese che soffre di una carenza di attenzione da parte dei media che è ormai costante. E il tragico evento di cronaca è il quarto ospedale di MSF che viene colpito nel giro di 12 mesi. Ci dà l'occasione per riaccendere i riflettori sul paese e capire che cosa sta accadendo. Purtroppo, se andate a risentire sul podcast la trasmissione che facevamo esattamente l'anno scorso, purtroppo probabilmente la potete ascoltare come se fosse di stretta attualità, ancora fresca ai noi, perché vi sono situazioni che incancreniscono e per le quali non si vede speranza. Abbiamo raggiunto la dottoressa Federica Nogarotto, direttore supporto alle operazioni di Medici Senza Frontiere, alla quale abbiamo chiesto un primo commento appunto dopo l'attacco che l'ospedale di MSF ha subito. La prima domanda riguarda proprio il bilancio. Sentite. Restano le stesse di stamattina, fortunatamente, quindi l'ospedale di Habs, che sta nel governorato di Aja, nella parte nord-occidentale dello Yemen, è stato colpito ieri pomeriggio da un attacco aereo e per ora il bilancio finale sono 11 persone morte e almeno 19 sono i feriti, quindi per ora il bilancio è lo stesso di ieri. Sì. Che tipo di struttura era quella colpita? Ospedale completo, era un ospedale con diversi reparti, il reparto diciamo di pronto soccorso che aveva un flusso di pazienti parecchio numeroso e dopodiché aveva anche un reparto di maternità, tra cui anche una parte con i neonati, una pediatria, aveva un reparto di chirurgia, un reparto di medicina, un ospedale vero e proprio. Un vero e proprio ospedale. Fate conto che noi lo appoggiamo e lo supportiamo dal luglio del 2015 e fino ad adesso avevamo curato più di 4.600 pazienti, quindi è proprio un ospedale normale con un flusso di pazienti anche parecchio grosso. Che specificità ha quella regione in termini sanitari per voi? Allora, in termini sanitari ha la specificità di essere stata isolata prima del nostro arrivo per parecchio tempo, per cui è una zona in cui sia a causa dell'embargo sia a causa del conflitto non sono arrivate per parecchio tempo forniture mediche, sia di materiale che di macchinari, diciamo. Inoltre è una popolazione che sta soffrendo di un conflitto ormai da diversi mesi, per non dire anni, e quindi si hanno anche quelle che sono le conseguenze di un conflitto di questo tipo. Per esempio, un nostro staff che è venuto a mancare durante il bombardamento di ieri, era un elettricista, aveva appena terminato il reparto in cui sarebbero stati ricoverati i bambini malnutriti. Quindi stiamo parlando anche di mancanza di cibo, proprio perché è una zona che è colpita dal conflitto ed è continua ad essere colpita dal conflitto negli ultimi 2 anni più o meno. Uno degli esperti ospiti in questa trasmissione, un analista inglese, sottolinea il fatto che almeno l'80%, quindi 20 milioni circa di yemeniti, hanno bisogno urgente di cure, sono in una grave situazione umanitaria. E lui sottolinea il fatto che da questo punto di vista è una crisi ancora più grave di quella siriana, con in più l'aggravante che i media se ne occupano molto di meno. È d'accordo in questo tratteggio così a tinte fosche? Allora, sono molto d'accordo sul fatto che i media se ne occupano molto meno. Non posso confermare che sia più grave di quella siriana, con questo ritengo semplicemente che non sia corretto metterli nella bilancia, nel senso che sono due situazioni molto gravi ambedue. Quello che succede in questo tipo di paesi, che erano abituati a delle strutture sanitarie diciamo abbastanza funzionanti o comunque medio moderne, ecco, quindi anche con forniture mediche e di medicinali normali e con una vita anche normale, con le conseguenti anche malattie di una vita normale, quindi per esempio le malattie croniche, quindi per esempio problemi al fegato, problemi al cuore, problemi che di solito chiedono i medicinali salvavita, tra l'altro, però sono i medicinali quelli che si prendono tutti i giorni. Ora, sia per il conflitto, ma per quanto riguarda lo Yemen, anche per l'embargo, mancano questi medicinali. Quindi ecco dove si è aggravata ancora di più una situazione che era già grave dovuta al conflitto, quindi con una serie di mancanze come feriti, cioè aumenta il numero di pazienti, ma diminuisce la quantità di materiale medico che è possibile utilizzare su questi pazienti, e non solo i feriti, ma anche i medici i pazienti che fino a ieri avevano medicine normalissime. La voce che avete sentito è quella di Federica Nogarotto, direttore supporto alle operazioni di Medici Senza Frontiere. Io nelle domande, nella chiacchierata con lei, ho fatto riferimento a un altro ospite che sentiremo tra poco. Adam Baron è un analista politico che ha vissuto per 3 anni in Yemen, continua a occuparsi del paese, vive tra Baltimora, Londra e Beirut, e l'abbiamo raggiunto proprio poche ore fa. Do il mio ben ritrovato e benvenuto a Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance esperta di Yemen. Laura, ben ritrovata a Nessun Luogo è Lontano. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie. Allora, mi duole, noi io e te ci sentiamo sempre per commentare la tragica situazione yemenita. Stavo facendo riferimento prima al fatto che ci sentimmo l'anno scorso, noi potremmo prendere forse ampi estratti di quella chiacchierata e purtroppo siamo allo stesso tragico punto di prima. Adesso lo commentiamo meglio. Laura, ascolta con noi, abbiamo ricapitolato dati e fatti sullo Yemen, poi li commentiamo insieme. Dal 2014 lo Yemen è teatro di una sanguinosa guerra civile che continua ad aggravarsi. A scontrarsi sono l'esercito governativo del presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, sostenuto da una coalizione capitanata dall'Arabia Saudita, e i gruppi di ribelli Houthi, sciiti, zaiditi, appoggiati dall'Iran. Sul campo è presente anche una terza forza, i miliziani di Al-Qaeda nella penisola arabica, che combattono contro gli sciiti per il controllo del sud dello Yemen. Negli ultimi mesi anche lo Stato Islamico si è insinuato nel paese commettendo diversi attentati. A febbraio 2015 gli Houthi hanno costretto il presidente Hadi a lasciare i suoi uffici a Sana'a e a rifugiarsi ad Aden. Questo ha provocato a marzo 2015 la reazione della coalizione saudita, che ha attaccato gli Houthi con raid aerei e un blocco navale. Da allora il conflitto si è inasprito. Le vittime continuano ad aumentare, sono quasi raddoppiate dalla scorsa estate. Secondo i dati dell'Office for Humanitarian Affairs dell'ONU, da marzo 2015 a luglio 2016 sono morte nella guerra oltre 6.300 persone e ne sono state ferite oltre 32.000. Su 26 milioni di abitanti, gli sfollati sono oltre 2 milioni e mezzo. Le Nazioni Unite prevedono inoltre che 167.000 persone lasceranno il paese entro l'anno. Oltre alle violenze intestine che stanno lacerando il paese, la situazione umanitaria è aggravata anche dalla crescente povertà. Lo Yemen è infatti il più povero dei paesi medio orientali, con un PIL pro capite annuale di $2.500. Allora, questa è la fotografia che abbiamo scattato dello Yemen. Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance, esperta del paese, ci ha vissuto, ci ha studiato. Laura, noi abbiamo sottolineato come nelle due fazioni vi sia una componente confessionale importante. Quanto il fatto che gli Houthi siano sciiti e quanto il fatto che invece il governo in carica è sunnita come dire, mette benzina sul fuoco. È una questione anche religiosa o le due confessioni dell'Islam sono una leva alla fine politica per le due formazioni e piuttosto dobbiamo valutare questo conflitto in termini di influenza dell'Arabia Saudita da una parte e dell'Iran dall'altra parte? Senza dubbio sono una leva, è un aspetto che io ho sempre, diciamo, sottolineato e stressato da quando si parla di questa guerra, che il sunnismo e lo sciismo in Yemen sono diversi da quelli che ci troviamo a vivere in altre zone del mondo, per esempio in Iraq. I sunniti sono Shafi, gli sciiti sono Zaid, diciamo che hanno anche nel modo di fare, di pregare, di vivere molte cose assolutamente identiche. Ci sono molte famiglie miste che si sono mescolate tranquillamente fino a poco prima della guerra. L'elemento confessionale è diventato uno strumento da parte, come giustamente si diceva poc'anzi, delle due potenze regionali più importanti, più ingombranti, che sono l'Arabia Saudita in modo diretto ed evidente e l'Iran in modo indiretto, ma potremmo citare Hezbollah, a cui assolutamente gli Houthi sono collegati, che è stato, diciamo, inoculato attraverso partiti politici, attraverso propaganda, attraverso campagne, attraverso anche una rivendicazione di indipendenza del nord, di alcune aree del nord tradizionalmente etnicamente anche un po' differenti dal resto del paese. Quindi questo elemento è stato stressato al punto tale che oggi, a distanza di, diciamo, un anno e mezzo dall'inizio della guerra e un anno abbondante dal colpo di Stato e la presenza evidente degli Houthi a Sana'a, è diventata una frattura gigante, cioè è diventata una situazione in cui persone che vivono nello stesso villaggio, amici del quartiere, decidono andare a combattere gli uni contro gli altri e non possono più vedersi. Laura Silvia Battaglia, stiamo cercando di fotografare una situazione che è molto complessa, è una guerra che va avanti da molto tempo in un paese molto spesso dimenticato ma fondamentale per gli equilibri di quella zona, e lo stiamo capendo e stiamo anche comprendendo come spesso accade la religione altro non è che una formidabile leva, un pretesto, se volete usare un linguaggio un po' più prosaico, per porre l'influenza appunto su questi territori. Abbiamo raggiunto Adam Baron, che è un analista politico, ricercatore del Comitato Europeo per gli Affari Stranieri, è specializzato nell'area dei paesi del Medio Oriente, si è occupato di Yemen, ci ha vissuto dal 2011 al 2014. L'abbiamo raggiunto e le abbiamo chiesto innanzitutto qual è l'obiettivo dei ribelli Houthi. Sentite. I mean, effectively, the Houthi rebels see themselves defending their country against the aggressive actions of Saudi Arabia. Come sentite, dice, gli Houthi stanno sostanzialmente difendendo il loro paese dall'aggressione dell'Arabia Saudita, e il loro obiettivo è di impedire ai sauditi e alla coalizione capeggiata dai sauditi da prendere il controllo del paese e le aree tuttora sotto il controllo Houthi. Prima di sentire ancora Adam Baron, torno da Laura Silvia Battaglia, che l'ha detto brevemente ma forse vale la pena di tornarci sopra. Gli Houthi sono originari della parte nord dello Yemen, è corretto? Sì, sono originari di Sada. Ricordiamo che questo paese, prima di essere unificato, era la parte nord di un imamato e quindi si riferiva proprio allo sciismo locale, mentre la parte a sud ha una storia molto diversa, era stato un protettorato britannico, aveva conosciuto il comunismo, parliamo di Aden. Quindi, diciamo, sono due mondi che a un certo punto si sono uniti insieme, tra virgolette, grazie alla presenza della grande figura, del grande vecchio dietro tutte queste vicende. In realtà ce ne sono due: uno è Ali Abdullah Saleh, che è stato per 30 anni il presidente del paese, e l'altro, da non sottovalutare, è Ali Mohsen Al-Ahmar, il quale sta guidando le truppe lealiste del presidente Hadi verso Sana'a. Attualmente si trova nel Marb, e quest'uomo è stato responsabile dell'ascesa del vecchio presidente, della protezione del nuovo, ed è stato anche capo dei servizi segreti e anche la figura più importante dentro la rivoluzione guidata dai fratelli musulmani del Partito Islam. Quindi è una guerra che si muove dentro il paese, dove sono figure di riferimento anche per le tribù, e che ha un ricasco, diciamo così, regionale molto ampio e internazionale. Fai bene a sottolineare l'importanza internazionale di questo teatro, perché se è vero che, come dire, la guerra sembra confinata e sembra così lontana in Yemen, è altresì vero che vedendo gli attori che sono in campo direttamente o indirettamente, ma poi ve lo spiego meglio, perché è coinvolta l'Italia, è coinvolto il Regno Unito, sono coinvolti gli Stati Uniti, oltre che la già citata Arabia Saudita, ci dà la dimensione di come lo Yemen ancora una volta sia un terreno distante da queste potenze, più o meno l'Arabia Saudita ci confina, ma estremamente, estremamente importante. Torniamo da Adam Baron, che vi dicevo è dell'European Council on Foreign Relations, esperto di Yemen. Forse alcuni di voi ricorderanno che c'è stato un tentativo di colloqui di pace, c'è stato un piano presentato dalle Nazioni Unite che però poi è naufragato, in particolare con un diniego forte da parte degli Houthi. Sentite che cosa dice Adam Baron rispetto al fallimento di questo piano di pace. I mean, the plan presented by the UN envoy failed to really. Adam Baron dice che il piano presentato dalle Nazioni Unite non era niente di nuovo, una riedizione di un piano precedente che gli Houthi avevano rigettato. Se parliamo dal punto di vista del riconoscimento internazionale, entrambe le parti pensano ancora di poter vincere questa guerra, di segnare conquiste militari sul terreno. Per questo non sono disposti a offrire alcuna alternativa. Laura Silva Battaglia, giornalista freelance esperta di Yemen, sostanzialmente quali erano le opzioni sul campo? Chi chiedeva, ad esempio, una partecipazione al governo di Sanaa? Ma le opzioni sul campo erano determinate da due condizioni. Come giustamente dice Adam, e fa molto piacere che l'abbiate sentito, le condizioni erano già all'interno della creazione della nuova Costituzione del paese dopo la rivoluzione del 2011. Una delle condizioni su cui si è spaccato tutto è il fatto che veniva chiesto a tutte le tribù e a tutti i partiti che si riferivano ovviamente alle tribù di disarmarsi, quindi via l'artiglieria, via pezzi dell'esercito che li rappresentavano, via pezzi diciamo armati di gruppi extra esercito che avrebbero aiutato, no, determinati partiti politici. Questo elemento non è piaciuto agli Houthi. Prima di tutto, e non è piaciuto nemmeno anche ai separatisti del sud, e quindi su questo si è spaccato tutto. L'altro elemento su cui tutto si è spaccato è stato consentire il ritorno a Sanaa dell'ex presidente Saleh, e al quale peraltro insomma inizialmente erano stati congelati i suoi conti, che sono assolutamente miliardari, perché uno degli uomini più ricchi del mondo. Questi due elementi hanno creato l'impossibilità di procedere oltre all'interno dell'organizzazione, cioè della possibilità di portare lo Yemen verso una soluzione diversa, con elezioni, con una nuova costituzione, con un referendum. Lì è successo il guaio. Sì. L'altro elemento che era a disposizione era il fatto che poteva essere diviso a metà il paese, cioè gli Houthi potevano prendersi il nord, che è la loro naturale posizione, e tra l'altro ricordo che al nord oggi non c'è più nessuno che sostiene il governo lealista, e gli altri avrebbero potuto prendere il sud, ma lo Yemen è forte in realtà ed è utile per tutti solo se unito. Ricordo che nel nord ci sono ancora dei luoghi dove è possibile estrarre del gas che ancora non è stato estratto, è possibile estrarre del petrolio che ancora non è stato estratto, e il sud ha un accesso al mare formidabile e il controllo di tutta questa zona che fa angolo praticamente fra l'area che va verso l'India e una zona che va verso il canale di Suez. E ricordiamoci quanto è importante, quanto fu importante anche per gli americani, che proprio Aden piazzarono la loro famosa base con i Marines. Quindi un coacervo di interessi dove nessuno vuole perdere la partita. Al 349-238-6666 gli hai risposto praticamente in diretta, Laura. Un ascoltatore chiedeva quali beni si contendono appunto le due fazioni. Stiamo meglio comprendendo anche dal punto di vista strategico e anche commerciale, perché quel Golfo di Aden, da lì transitano parecchie merci di tanti stati nel mondo, è un po' una grande porta che unisce Occidente e Oriente. Torniamo alla voce di Adam Baron dell'European Council of Foreign Relations. È uno studioso esperto di Yemen, lo ricordo, dal 2011-2014 ci ha lavorato proprio nel paese. Sentite come riassume molto sinteticamente l'obiettivo dell'Arabia Saudita nella coalizione. Lo ricordo, l'Arabia Saudita guida questa coalizione, che è quella che sta facendo i bombardamenti, per intenderci. Their goal, as stated, is to restore Yemen's internationally recognized government. Il loro obiettivo è quello di rimettere in piedi il governo internazionalmente riconosciuto al potere nella capitale Sanaa e di riprendere tutte le zone attualmente sotto il controllo Houthi e dei loro alleati. Allora la domanda viene naturale: Così facendo l'Arabia Saudita vuole estendere il controllo sulla regione. Sentite cosa dice Adam. Definitely, I think this is Saudi Arabia really flexing its muscle. Assolutamente sì, dice, l'Arabia mostra, o meglio sta cercando di dimostrare i muscoli nelle sue immediate vicinanze, nell'intera penisola arabica, e certamente lo Yemen è un paese dove da sempre l'Arabia Saudita ha cercato di imporre la sua influenza. Nonostante abbia lo stesso numero di abitanti, lo Yemen è significativamente più povero. I sauditi hanno sempre esercitato un loro potere fino alla ribellione Houthi, che è stato un momento in cui il paese si è staccato, almeno quella parte, dall'influenza saudita. L'episodio di cronaca che ci ha dato il là per questa trasmissione di Nessun Luogo Lontano, la cui prima parte è tutta dedicata allo Yemen, era questo quarto attacco che una struttura guidata da MSF ha subito. Gli ho chiesto molto banalmente se secondo lui c'è un disegno dietro a quattro target in 12 mesi, tutti targati MSF. Sentite. It's hard for me to imagine. È molto difficile da dire, dice Adam, è duro immaginare che un governo, un esercito appoggiato da Stati Uniti e britannici abbia bombardato intenzionalmente scuole e ospedali. Dobbiamo ricordare che due giorni prima è stata bombardata anche una scuola e fatalità, i bambini, gli studenti che andavano in quella scuola sono poi finiti nell'ospedale che è stato bombardato. Quindi, dice Adam, deve essere accaduto per errore, la cosa resta grave ugualmente. Ad Adam Barum abbiamo anche chiesto un commento sulla mancanza di attenzione da parte dei media rispetto ad esempio al conflitto siriano. Sentite. I think there has been a significant lack of media attention even compared to Syria. E dice sì, c'è un vuoto significativo dei media, della loro attenzione se paragoniamo questa situazione a quella siriana. Dobbiamo tenere a mente che la crisi umanitaria in Yemen è addirittura più grave di quella siriana. Abbiamo una situazione dove circa l'80% della popolazione yemenita, il che vuol dire 20 milioni di persone, sono in condizioni di avere aiuto umanitario. In più sia la terra che il mare sono bloccati, il che impedisce anche la più banale attività di commercio. E poi, ricorda Adam, ci sono altre implicazioni oltre alla crisi umanitaria. Lo Yemen, ricorda, è un paese dove gruppi come Al-Qaeda nella penisola arabica hanno sempre avuto storiche roccaforti e sono stati capaci di aumentare il loro spazio d'azione. Ultimissima domanda per lo studioso dell'European Council on Foreign Relations, Adam Barum. L'economia del mercato delle armi, un bellissimo pezzo dell'Economist datato 26 luglio, andatelo a cercare se potete, si trova anche online, ricorda questo mercato miliardario, perché alla fine questa guerra che viene combattuta in Yemen evidentemente conviene parecchio. Sentite cosa dice Adam. I'd say there's a lot of people in both the United States and the United Kingdom. Dice c'è un considerevole numero di persone che fa soldi negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa grazie a questa guerra. Le guerre sono buone per il business e quando hai clienti di così alto livello come l'Arabia Saudita, che non solo comprano armi ma le usano, questo è certamente lucrativo per i produttori e i commercianti di armi. Poi affronteremo con maggiore dovizia di particolari questo capitolo, quanto una guerra dimenticata come questa sia un propellente incredibile per il mercato, appunto sia di chi produce le armi che di chi le vende. Però voglio tornare da Laura Silvia Battaglia. È possibile trovare secondo te un modo per mettere la parola fine? Che cosa può accadere adesso, viste le forze in campo e visto che la comunità internazionale, l'ONU in particolare, con il piano di pace, con queste proposte, non sembra sortire effetto? Quale potrebbe essere il deus ex machina che in questa situazione a un certo punto fa parlare le parti e le mette d'accordo? Ma non credo che sia possibile far parlare le parti. Se conosco bene lo Yemen, se conosco bene gli yemeniti e le parti in guerra, la guerra andrà avanti, Ali Mohsen Al-Ahmar entrerà a Sana'a e lì si combatterà angolo per angolo, come è stato fatto ad Aleppo, a meno che gli Houthi non decidano di dare la resa, e sono molto orgogliosi per dare la resa. Quindi personalmente non prevedo nulla di buono, l'ONU non credo che farà ancora molto, ci ha provato due volte. Poi non bisogna dimenticare che i sauditi, comprando tutte queste armi, si sono comprati anche il lasciapassare dalla comunità internazionale per bombardare a piacimento. Gli Houthi hanno un'artiglieria potente, hanno certamente la popolazione tutta dalla loro parte, ma è nulla se paragonato alla potenza di fuoco che può essere scatenata dall'alto. E se posso aggiungere solo un particolare riguardo a quello che chiedevate, Adam, su MSF, sì. Aggiungo, e me ne prendo la responsabilità perché ne sono assolutamente certa, che i sauditi hanno perfettamente le posizioni di tutti gli ospedali MSF in tutto il paese, lo sanno perfettamente dove sono posizionati. Quindi è un errore difficilmente giustificabile questo? Per quanto mi riguarda sì. Allora adesso, in attesa dell'informazione finanziaria, vi faccio sentire ancora, e Laura ti rubo ancora un altro po' di tempo, stai con noi, vi faccio sentire sempre Federica Nogarotto, che è direttore supporto alle operazioni di Medici Senza Frontiere, perché la puntata di quest'oggi nasce dalla cronaca di questo tragico bombardamento, il quarto su un ospedale di MSF, ma gli obiettivi civili sono stati molteplici e adesso non è che purtroppo soltanto MSF è stata colpita. Due giorni prima appunto una scuola, sempre nella zona della città di Habs, siamo nella regione di Asia, il nord-est del paese, sopra Sanaa per intenderci. E, beh, alla dottoressa Nogarotto ovviamente ho fatto la domanda diretta, vi sentite un target? Sentite cosa dice. No, non siamo un target, mi viene da dire quasi purtroppo, nel senso che fosse soltanto i nostri quattro ospedali sarebbe niente rispetto a quello che invece sta succedendo in realtà. Ricordiamo che due giorni prima di noi è stata colpita una scuola da cui noi abbiamo ricevuto 38 bambini come pazienti dai 6 ai 15 anni, di cui 10 sono arrivati morti. Quindi non è la struttura sanitaria, non è Medici Senza Frontiere, non è la struttura sanitaria il target. La cosa che è veramente, dovrebbe essere anormale, invece è diventata ormai normale, è che ci sono degli attacchi deliberati contro tutte le infrastrutture civili. Ed è quella la cosa che è assolutamente inaccettabile e che invece sembra che venga accettata. Deliberati attacchi su tutte le strutture civili, questo è quello che sta accadendo in Yemen, molto poco raccontato. 349-238-6666, se avete domande per me, ma soprattutto per la mia ospite, Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance esperta in Yemen, approfittatene perché fra un poco la salute, andremo avanti con gli ospiti, adesso però c'è l'informazione finanziaria, poi nessun luogo sarà lontano. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo è lontano. Il conflitto in Yemen, dimenticato, poi però accade che viene colpito per la quarta volta un ospedale gestito da MSF e allora anche l'Occidente si ricorda quello che sta accadendo nell'importante paese della penisola arabica. C'è una sorta di assuefazione e probabilmente chi racconta queste cose è in parte anche responsabile. Lo stesso Adam Baron sul Guardian di oggi dice che c'è qualcosa di sbagliato nel momento in cui la reazione degli yemeniti al bombardamento di una scuola o di un ospedale, dice testualmente, è una triste scrollata di spalle. È come se la guerra ormai è così dentro la quotidianità che non ci si indigna neanche più. Sentite che cosa dice rispetto a questo tema Federica Nogarotto, direttore supporto alle operazioni di MSF. È terribile, è quello che dicevo prima, una cosa che è anormale diventa normale. Quindi ormai per loro, ma anche semplicemente le immagini, immaginatevi le immagini in televisione che anche noi continuiamo a vedere in continuazione, immaginate se noi cominciamo ad avere una certa, essere in un certo senso quasi, non dico abituati, spero di no, però immaginiamo loro che è il loro quotidiano di tutti i giorni, quindi è molto molto ma molto triste, però confermo che sia così, probabilmente è anche un modo per poter sopravvivere ad una situazione di questo tipo. E questa è la triste descrizione di questa assuefazione, che è la assuefazione di chi vive la guerra in prima persona, e poi però c'è anche probabilmente un'incapacità da parte dei giornalisti. Intanto lo Yemen è molto difficile da raccontare adesso e sono molto pochi i giornalisti che riescono a farlo, e poi probabilmente c'è sempre questa sensazione di distanza rispetto a un paese che è lontano, che non ci riguarda, ma come stiamo comprendendo quest'oggi, gli attori sono importanti e sono molto molto presenti in questo conflitto. Laura Silvia Battaglia, un commento, forse un mea culpa dovrebbe essere recitato dalla classe giornalistica rispetto a questa assenza, a questa assuefazione? Diciamo in generale, perché non parlerei dell'Italia, perché in generale gli esseri in Italia si trattano soltanto quando ci interessano molto da vicino, quindi parliamo in genere solo di Libia. C'è un problema tecnico, cioè è impossibile entrare nel paese attualmente se non hai una nazionalità yemenita, un passaporto yemenita o un lasciapassare perché sei familiare di un yemenita. Sì. E questo è un primo discorso, quindi è impossibile, tranne per gli operatori umanitari, entrare, non ci sono giornalisti. I giornalisti sul posto che hanno collaborato da tempo con il Telegraph, con il Guardian, con altri, sono target da tutte e due le parti. Rischiano di finire sotto i bombardamenti sauditi, si trovano sul posto, rischiano di essere incarcerati, rapiti dagli Houthi se parlano dei crimini commessi dall'altra parte in guerra, che non è nemmeno così diciamo pacifica come a volte si vuol far credere. Quindi è una sorta di trappola rispetto alla quale riusciamo difficilmente a tirar fuori delle informazioni circostanziate senza che chi le dia rimanga fuori da ogni pericolo, perché è impossibile in questa guerra stare fuori dai pericoli che entrambe le parti in lotta destinano a civili e a giornalisti. Grazie mille Laura Silvia Battaglia per essere stata con noi, lo ricordo, giornalista freelance, esperta di Yemen. Buona giornata Laura e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Allora, vi faccio sentire ancora le ultime due battute velocissime di Federico Nogarotto, direttore supporto operazioni di Medici Senza Frontiere, alla quale ho chiesto se le prossime mosse in Yemen cambieranno dopo i tragici eventi. Sentite. Beh, probabilmente aumenterà addirittura, nel senso che sì, prosegue come prima con le debite misure, nel senso che per esempio i feriti di ieri sono stati evacuati, in questo momento l'ospedale non è funzionante al 100%, quindi chiaramente non possiamo operare esattamente come prima, il personale sanitario che avevamo lì, sia quello internazionale che nazionale, è stato evacuato perché chiaramente traumatizzato, però sì che si continua, perché le vittime sono sempre di più e quindi la popolazione vulnerabile aumenta sempre di più, quindi è chiaro che la nostra risposta non è di certo chiudere, fare la valigia e venire a casa. E poi c'è l'ultimissima domanda, che se volete anche un risvolto politico, insomma, dei grandi attori che ho citato, c'è qualcuno che va tirato per la giacchetta? Si ha come la sensazione che, vista anche l'implicazione delle vendite di armi di Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia, di cui si è scritto nella stampa anche l'anno scorso, visto che è la coalizione saudita che compie questi attacchi, non è che c'è una sorta di censura nel riportare questi tragici eventi? Sentite cosa dice ancora Federica Nogarotto di MSF. Basterebbe che ci fosse coerenza e basterebbe che i paesi che fanno parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU rispettassero le dichiarazioni che gli stessi fanno, essi stessi fanno. A maggio è stata scritta, firmata una risoluzione da parte delle Nazioni Unite e quindi anche di tutti quanti i paesi che lei ha citato prima, dove si chiede di porre fine agli attacchi contro le strutture mediche. Nonostante questa risoluzione e nonostante delle dichiarazioni anche legate al diritto internazionale umanitario, sembra che tutto ciò non stia assolutamente cambiando. Quindi io direi che la dichiarazione che possiamo avere noi in questo momento è un minimo di coerenza tra quelle che sono le dichiarazioni che si prendono in certi tavoli e quello che poi dopo viene fatto. E questa è la chiacchierata che abbiamo fatto con Federica Nogarotto, direttore supporto alle operazioni, scusate, di Medici Senza Frontiere. Ho fatto cenno al fiorente mercato di armi, perché una guerra come questa, così lunga e con un cliente di così alto livello, come diceva Adam, come l'Arabia Saudita, insomma, questo rende ovviamente la vendita estremamente profittevole. Lo ricordava l'Economist in un articolo del 26 luglio. Abbiamo così deciso di raggiungere Andrew Smith, che è il portavoce dell'inglese CAT, Campaign Against Arm Trade, al quale abbiamo chiesto cosa si sa della vendita di armi da parte del Regno Unito verso l'Arabia Saudita. Sentite. Da molto tempo l'Arabia Saudita è il principale acquirente di armi britanniche e questo commercio è ulteriormente cresciuto da quando l'Arabia ha iniziato a bombardare lo Yemen 18 mesi fa. La Gran Bretagna ha venduto finora all'Arabia Saudita 3,3 miliardi di sterline, circa 4 miliardi di euro, in forniture militari che includono jet Eurofighter, bombe, missili. Abbiamo osservato che si sta assistendo a un aumento della vendita di armi. L'Arabia sta molto intensificando gli acquisti, quindi anche se per la popolazione yemenita la situazione sta avendo un impatto devastante, dal punto di vista delle compagnie che producono e distribuiscono armi, questa è un'opportunità di business. Tutto ciò fa parte di una politica di lungo periodo. Durante il mandato di David Cameron, il Regno Unito ha venduto all'Arabia Saudita equipaggiamenti militari per circa 6,6 miliardi di sterline, esattamente in linea con le cifre del governo di Tony Blair. Speriamo che con il nuovo primo ministro, Theresa May, la situazione possa cambiare. Andrew Smith, portavoce dell'ONG inglese CAT, Campaign Against Arm Trade, ONG che monitora il mercato delle armi, che punta il dito chiaramente contro il Regno Unito. 349-238-6666 per commenti e domande. Grazie per i complimenti, ma non leggiamo noi per policy i complimenti al programma. Invece c'è qualcuno che storce il naso e si chiede: bombardare scuole, ospedali è vile, ma l'ONU dov'è? In ferie? Scrive con sarcasmo, amaro sarcasmo, Lino di Pavia. Beh sì, purtroppo, come avete sentito, le Nazioni Unite, come tante altre volte, sta facendo una grandissima fatica a imporre un diktat, a imporre la pace, figurarsi. Ma l'abbiamo visto anche in Siria, purtroppo molto spesso i fallimenti durante i conflitti sono stati sotto gli occhi di tutti. Il 349-238-6666 vale anche per gli sms, ma siamo anche su Twitter, Giampaz, Nessun Luogo 24, su Facebook la pagina è Nessun Luogo Lontano - Radio 24. Allora, siamo sempre con Andrew Smith della Campaign Against Arm Trade, un'ONG specializzata nel monitorare il mercato delle armi. Quali sono le armi più pericolose che il Regno Unito ha venduto all'Arabia Saudita? Sentite cosa dice Andrew Smith. L'arma più letale venduta dal Regno Unito all'Arabia Saudita è senza dubbio il jet Eurofighter, che Riyadh sta largamente utilizzando per i bombardamenti in Yemen. Un recente rapporto di Human Rights Watch ha dimostrato il collegamento tra le bombe di produzione britannica e i bombardamenti di diverse infrastrutture civili e di due fabbriche in Yemen. A Andrew Smith abbiamo poi chiesto qual è la situazione dell'Italia. Sentite. Tra il 2001 e il 2014 l'Italia ha venduto circa 2,7 miliardi di euro in armamenti all'Arabia Saudita. Queste forniture includono parti di jet Eurofighter, diversi tipi di ordigni esplosivi e diversi tipi di munizioni. Ma questo fa parte dell'intera situazione, non è solo il Regno Unito a essere coinvolto, ci sono molte nazioni che forniscono armi all'Arabia Saudita, anche se il Regno Unito rimane il primo fornitore. Di fatto, ognuno dei principali paesi europei vende armi all'Arabia Saudita. Andrew Smith, portavoce di Campaign Against Arm Trade, ci aiuta a tratteggiare quello che sta accadendo nel teatro yemenita, dove uno dei principali attori appunto è l'Arabia Saudita, che guida questa coalizione internazionale, che è quella che è il momento sta infliggendo tramite bombardamenti grosse perdite ai ribelli Houthi. Sentite che cosa dice rispetto alle armi impiegate sul terreno. La natura dell'attacco dell'Arabia Saudita contro lo Yemen comporta che le armi più impiegate siano i caccia Eurofighter e le bombe, ma se osserviamo la situazione con più attenzione c'è anche un fiorente commercio di armi più piccole. E la somma di questi fattori ci porta al punto cruciale, cioè che oltre al tremendo bilancio di 7.500 vittime che aumentano in continuazione, stiamo assistendo a una catastrofe umanitaria che si snoda su diversi livelli, dalla distruzione di abitazioni e luoghi di lavoro fino di fatto alla distruzione dell'economia locale. Ci sono molte facce diverse di questa catastrofe umanitaria. Abbiamo assistito alla distruzione di fabbriche, scuole e ospedali, cioè di quelle strutture su cui si fonda la vita quotidiana. E quest'ultima risposta di Andrew Smith della Campaign Against Armed Trade ci costringe a tornare al punto di partenza di questa trasmissione, che è stato quel bombardamento dell'ospedale gestito e coordinato da MSF ad Habs, regione di Aceh nel nord-ovest, dello Yemen. La stessa domanda che abbiamo rivolto a MSF, ma Medici Senza Frontiere è stato un obiettivo in quel caso? Sentite. Medici Senza Frontiere ha detto di aver indicato all'Arabia Saudita le coordinate dei suoi ospedali. Noi di CAIT non ci spingiamo fino a suggerire che gli ospedali fossero dei bersagli dei bombardamenti, ma quello che emerge è che anche se le forze saudite conoscono le coordinate e sanno dove si trovano gli ospedali, non sono in grado di evitarli. Ciò ci suggerisce che le cosiddette bombe intelligenti non sono poi così intelligenti e che l'aeronautica saudita non è interessata o non è capace di evitare obiettivi civili. Se gli ospedali vengono colpiti con una certa frequenza da questi bombardamenti, viene da chiedersi chi altro venga colpito e cos'altro si debba aggiungere ancora al bilancio dei cosiddetti danni collaterali. Così si chiude questa prima pagina molto lunga dedicata allo Yemen. Adesso le informazioni sul traffico e poi un'altra storia da un altro continente. Nessun luogo è lontano. From the aftermath of yesterday's Dalit rally in Una, there were incidents of violence near the village of Samter on the outskirts of Una as Dalits were on their way back to different parts of Gujarat. La seconda storia di quest'oggi, di Nessun Luogo Lontano, ha avuto uno dei risvolti l'11 luglio. Questa notizia, questa storia è stata riferita anche dalla stampa in Italia. Alcuni vigilantes, che sono questi gruppi che proteggono le vacche sacre, avevano catturato 4 giovani Dalit e la casta degli intoccabili in India. I 4 giovani stavano scuoiando carcasse di alcuni bovini, così riferisce la stampa, e sono stati accusati di aver ucciso le vacche per mangiarsele, che come sapete non è consentito. I 4 vigilantes non gli hanno creduto, li hanno denudati, presi a bastonati con sbarre di ferro e pali di bambù, poi trascinati fino al villaggio, legati a un'auto, ancora frustati e esposti al pubblico ludibrio. In risposta è scattato uno sciopero di migliaia di Dalit, una lunga marcia di protesta che ha attraversato e attraverserà lo stato del Gujarat. E in realtà è culminata proprio ieri, nelle ultime ore. Questa protesta dei Dalit, i cosiddetti intoccabili, che cosa significa, che ruolo hanno in India? Abbiamo raggiunto Martin McQueen, che è membro della Dalit Foundation, al quale abbiamo chiesto di farci il punto. Cosa è accaduto nella città di Una e nell'intero stato del Gujarat proprio ieri? Sentite cosa dice. Concluding event of a march which some people had taken up. E come sentite, Martin McQueen dice: ieri nella città di Una, siamo nello stato del Gujarat, c'è stato un grande evento conclusivo con una grande marcia. Circa 25.000 persone si sono riunite, per la maggior parte giovani, per protestare contro quello che sta succedendo ai Dalit. Hanno dichiarato che le proteste continueranno finché non saranno riusciti a ottenere un po' di giustizia. Sulle vie del ritorno alcuni Dalit sono stati circondati e picchiati da persone della casta dominante in Gujarat. 8-10 persone sono rimaste ferite, alcuni sono finiti in ospedale e hanno subito interventi chirurgici. Inoltre alcuni veicoli sono stati distrutti. E in questa conclusiva pagina di Nessun Luogo è Lontano siamo partiti da questo episodio di cronaca che in India sta scatenando grosso interesse mediatico, ma soprattutto grosso interesse da parte della piazza e dei Dalit, dei cosiddetti intoccabili, che dopo un recente tragico episodio di cronaca hanno deciso di scioperare, di scendere in piazza e far sentire la loro voce. Chi sono i Dalit? Qual è la loro situazione? Sentite come la spiega meglio Martin McQueen. The question is about 16.5% population all over the country. Circa il 16% della popolazione indiana e circa il 70% della popolazione dello stato del Gujarat è composta da individui detti Dalit. Queste persone sono vittime di discriminazioni di casta, la peggiore delle quali è rappresentata appunto dall'intoccabilità. C'è la credenza popolare che il sistema delle caste sia di origine divina e che vada rispettato, quindi gli intoccabili hanno quartieri separati, pozzi d'acqua separati ed è loro proibito entrare nei templi. Ora, prosegue Martin McQueen, durante tutti gli anni di indipendenza politica del paese, diverse norme e numerosi movimenti sociali hanno messo in discussione il sistema delle caste. Per quanto credo che il sistema stia perdendo la sua presa sulla società, va anche detto che vi sono molte spinte per mantenerlo e non abbandonarlo, ed ecco la ragione principale delle proteste e dell'aumento di tensioni sociali nel paese. Martin McQueen, membro della Dalit Foundation, che lotta per i diritti dei cosiddetti intoccabili, al quale abbiamo chiesto anche: ma la situazione è migliorata negli ultimi anni? Ci sono peraltro intoccabili anche in Parlamento, sentite cosa dice. So there are, because of reservation, you see, way back in 1920. E così Martin McQueen mette in luce quella che è una tradizione del colonialismo britannico. Era una legge sulle quote che ha origine negli anni 20. I britannici avevano dato segnali che avrebbero lasciato il paese, e così, mentre i musulmani chiesero di avere una nazione separata, cosa che poi è accaduto con il Pakistan, i Dalit chiesero di ottenere un elettorato separato e di sedersi poi contemporaneamente in un proprio parlamento interno e nel parlamento ufficiale. Gandhi si oppose perché gli sembrava una strategia proprio dei britannici per separare l'India, e così nacque un sistema di quote riservate in Parlamento per religione. Ed ecco la ragione per la quale oggi ci sono 84 parlamentari Dalit nel Parlamento nazionale e centinaia nei parlamenti locali. Ma i Dalit sono anche divisi tra loro in due partiti, e c'è più fedeltà al partito, pensate, che non alla comunità. Quindi alla fine finiscono anche per non contare molto. Sentite cosa dice sempre Martin McQueen, membro della Dalit Foundation. L'abbiamo raggiunto in India dopo queste proteste, 25.000 persone in piazza, dopo che quattro ragazzi erano stati malmenati e esposti al pubblico ludibrio per aver toccato delle vacche. Come procede la situazione delle proteste al momento? Sentite Martin McQueen. There's a very, very powerful media support, and I think without media support, this would not have got. C'è un sostegno, una copertura dei media che è molto potente, ma soprattutto da parte delle testate online, racconta, e direi ancora di più da parte dei social media. Ci si scambia video sulla situazione e le voci si spargono sempre più velocemente. C'è davvero un forte sostegno, così racconta l'attivista indiano della Dalit Foundation, al quale abbiamo rivolto un'ultima domanda: è l'esito di questa protesta potrà avere qualche successo? Sentite cosa dice. There cannot be one opinion, but I would say that there's a lot of change, slow change, not at the extent that we desire. Martin McQueen dice, potrebbe essere solo la mia opinione, ma secondo me stiamo assistendo a qualche lento cambiamento, piccoli cambiamenti anche se non a livello che speravamo. Solo qualche anno fa la segregazione era condivisa da tutti, era molto potente. Ora in tutta l'India trovi persone che pensano, che ritengono che le caste facciano male al paese, anche se si tratta di una minoranza. E la larga maggioranza tuttora pensa che il sistema delle caste debba continuare. 349-238-6666, è lì che state mandando un po' di commenti, sia SMS che WhatsApp. E insomma, c'è qualcuno che dice: ma com'è possibile un paese così medievale, lo mette tra virgolette, una potenza nucleare e tecnologica? Che contraddizione e che paura, così un ascoltatore fra i tanti che stanno commentando questa notizia che vi stiamo riportando e di cui vi daremo conto nelle prossime settimane di Nessun Luogo. Vedremo questa protesta, se sarà una prima spallata al sistema delle caste, che insomma è molto difficile ovviamente, come potete immaginare, da smontare. Era la protesta in India dei Dalitti, cosiddetti intoccabili. Allora, ultimissima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Siamo partiti da una guerra dimenticata, che è quella yemenita. Abbiamo cercato di così ridisegnare un po' le forze in campo, le conseguenze. C'è un'altra guerra dimenticata che si combatte ormai da 2 anni. I numeri sono certamente inferiori, ma non per questa meno grave. Ne ha parlato persino Papa Francesco all'Angelus. Sentite. Il mio pensiero va agli abitanti del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, recentemente colpiti da nuovi massacri che da tempo vengono perpetuati nel silenzio vergognoso, senza attirare neanche la nostra attenzione. E l'episodio di cronaca a cui fa riferimento Papa Francesco è un massacro avvenuto 2 giorni fa, durante il weekend, a Beni, che è una città nel nord del Nord Kivu, ed è una zona dove un gruppo ribelle che si chiama ADF Nalu avrebbe compiuto un assalto, compreso un assalto all'arma bianca, e hanno ucciso 51 persone. Chi si cela dietro questo ennesimo massacro? Abbiamo raggiunto Fidel Bafilemba, analista congolese indipendente per la regione dei Grandi Laghi. Qual è l'idea che si è fatto su quello che sta accadendo a Beni? Sentite. Che le monidea sia la situazione che si passa a Beni, je veux dire che c'est un flou artistique. E come sentite, non usa mezzi termini, quello che sta accadendo è una situazione confusa creata a tavolino, ideata, preparata e mantenuta da persone a cui questo caos fa comodo. Cito le autorità del governo della Repubblica Democratica del Congo e della MONUSCO, la missione dei caschi blu dell'ONU. Finché la crisi umanitaria colpirà questa regione, dice Fidel Bafilemba, a chi approfitta della situazione vengono garantiti migliaia e migliaia di posti di lavoro e altrettanti dollari di guadagno. Se vi interessa questa complicatissima storia di Beni, Nord Kivu, l'appuntamento è per domani alle ore 16. Intanto ringrazio voi per essere stati all'ascolto, Antonio Talia, Eleonora Aragona, Silvia Mannati, che hanno confezionato con me questo programma, Andrea Roccabella, che è in regia. Un saluto da Giampaolo Musumeci, ci sentiamo domani.